Non è solo affetti stabili con Radio 24, ma proprio un legame di sangue. Buona trasmissione, buona giornata. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Speriamo che non ci portino via, cara Deborah, però ce li abbiamo i fiumi di parole. Come stai? Buongiorno. Sto bene, stavo trastullandomi sul DPCM che il Premier Conte ha firmato ieri e che è prontamente comparso in Gazzetta Ufficiale per la tua gioia. Hai tutte 127 le pagine della Gazzetta Ufficiale con te, stai leggendola allora, allegato per allegato? Sì, la sfortuna è che non ho la stampante in casa, per cui mi devo sbizzarrire sul mio notebook, ma noto con piacere che appunto il Premier Conte ha varato un nuovo DPCM. Mi sembra però che qualche settimana fa avesse detto basta con questo tipo di provvedimento, adesso agiremo per decreti, e invece niente, arriva di nuovo con il decreto, sì, ma quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lui voleva fare qualcosa di più veloce, è ritornato invece ad un classico della sua azione di questo periodo. Guarda, c'è il decreto legge perché è uscito sabato in Gazzetta, non vorrei te lo fossi perduta, perché sì, così una cosa no, da questo, leggere. Diciamo sulle ripartenze delle attività economico-produttive. E poi vedrai quando arriva il decreto rilancio, lì proprio ci sarà proprio da stampare, stampare, stampare, pagine, pagine, e scrivere, pagine. Scrivere, scrivere sul sole. Esattamente. Allora, e poi c'è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è molto denso, lo voglio dire, per gli appassionati della materia, ma anche per tutti gli operatori, perché ci sono tutti gli allegati. È quello che lo rende così corposo, diciamo, gli fa sfiorare le 130 pagine, perché ci sono tutti i vari allegati con i comportamenti da tenere, ad esempio per il contenimento nei cantieri, per gli esercizi commerciali, per il trasporto pubblico e così via. Quindi tutta questa mole di allegati fa sì che il provvedimento sia abbastanza corposo, per usare un termine garbato. Però mi sembra di capire, caro Mauro, che l'ideale è andare a cercare di capire cosa si fa nella regione di residenza, perché poi abbiamo appreso nelle ultime ore di questo disappunto fra governo centrale e qualche governatore, per cui forse dopo aver letto, se uno ha la passione, questi documenti, forse è anche bene andare ad informarsi cosa succede sul proprio territorio, perché tanto per dirne una, dal 25 maggio riaprono le palestre, ma qui in Lombardia riaprono la settimana dopo. Una delle piccole differenze, no, tra quello che si è deciso a livello centrale e quello che poi si può decidere chiaramente sulla base regionale, e quindi insomma diamo anche questo suggerimento forse ai nostri ascoltatori. Ma tu avevi intenzione di andare in Trentino al Festival dell'Economia prossimamente? Mi sarebbe piaciuto, anche per te avrei potuto ringraziare di persona Cristina, che è una ascoltatrice che si definisce due di denari dipendente, quindi uno sfoggio di un'ottima dipendenza. Cristina ci dice: buongiorno Deborah e Mauro, normalmente in questi giorni a Trento ci saremmo preparati al Festival dell'Economia, la vostra kermesse sempre molto attesa, interessantissima, mai come quest'anno. Ci dice Cristina: mi mancate tantissimo. Beh, allora Cristina, la cosa è reciproca naturalmente, però ci ascolti sempre e mi raccomando, non ci faccia mai mancare il suo sostegno, la sua simpatia. Ma oggi invece bisogna parlare... E le sue torte, non te lo ricordi che è la signora che ci porta le torte, peraltro? Non volevo rivelare che era per questo il motivo per cui citavamo l'ascoltatrice, però ebbene sì, siamo stati presi per la gola, dobbiamo dirlo. Allora, di che parliamo oggi, Deborah? Allora, parleremo diffusamente di mercati finanziari nella prima parte, ma poi nella seconda, come largamente promesso ai nostri ascoltatori da settimane, torneremo sul BTP Italia. Parte oggi il collocamento di questa 16ª emissione molto speciale, prevista, come sapete, in occasione dell'emergenza Covid-19, e quindi avremo dei dati assolutamente freschi rispetto a come stanno andando queste prime ore di collocamento, e ritorneremo sulle caratteristiche dettagliate di questo strumento di investimento. Venerdì è stato diffuso il dato sul rendimento minimo garantito all'1,4%, e ci sono arrivate nel frattempo, nelle weekend, tante domande da parte degli ascoltatori che vogliono avere qualche dettaglio in più rispetto a questa operazione. Ce ne sono state tante altre nel passato, dicevamo 15, questa è la 16ª, e quindi le differenze, che convenienza si ha a sottoscrivere un prodotto di questo tipo in questo momento, visto che è legato anche all'inflazione. Quindi avremo di nuovo un ritorno con noi, quello di Davide Iacovoni, capo della direzione del debito pubblico del Ministero dell'Economia, e anche un altro ospite molto atteso, Guido Brera di Kairos, e tra l'altro autore di Diavoli, che si è conclusa venerdì su Sky, una fortunata serie in cui si racconta anche di speculazione finanziaria come quella che ci ha colpito nel 2012, quindi sarà interessante anche cogliere il suo punto di vista rispetto a quello che sta e succederà in questi giorni con questo BTP. Se volete prenotarvi per fare domande, ci sono i numeri abituali 800 24 00 24, per il numero verde. Invece, se preferite mandare messaggi SMS o intervenire via WhatsApp, e quindi anche con messaggi vocali, 349 238 6666. Naturalmente, Debora, essendo lunedì, io mi aspetto che ci sia pure il Meteo Borse, se lo aspettano di là dal vetro Peter Bescapè e anche il grande fratello nerazzurro Danilo Di Trani, che viene sempre dileggiato ingiustamente da Alessandro Milan. Ai ai ai, caro Alessandro, un po' di rispetto per il tifo del collega nerazzurro Danilo Di Trani. Anche lui, devo dirti, sai Debora, è decisamente multicrinito Danilo. Se qui se non riaprono i barbieri è un disastro anche per noi maschietti. Fantastico. Va bene. Vogliamo andare col Meteo Borsa, che dici? Volentieri, partiamo. Meteo Borsa. Meteorologo della settimana Marco Piersimoni, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Abbiamo diversi temi da commentare già questa mattina. La settimana parte bene per le borse europee, un po' perché provano a recuperare i cali di settimana scorsa, un po' perché cercano di capire, insomma, come proverà a sostenere l'economia in caduta libera la ripartenza, anche se molto graduale e lenta, delle attività economico-produttive a livello mondiale. Si procede in ordine sparso, si riparte oggi in Italia, dicevamo prima, con tutte le differenziazioni territoriali, ma anche in tutte le altre parti del mondo si riparte. Ci sono tanti temi da commentare stamattina. Ci sono delle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che ha invitato in un'intervista alla CBS a non scommettere contro l'economia americana, e però ha detto per un ritorno ad una situazione di normalità ci verrà ancora molto tempo e soprattutto ci vorrà un vaccino. E questo è il primo monito interessante. Per quello che riguarda Piazza Affari, stamattina c'è lo stacco del dividendo per molti gruppi importanti, uno stacco che pesa per lo 0,86%, tutti gli indici sono in positivo di oltre 2 punti percentuali. E poi, Mauro, sai che da domani la Consob annulla il divieto di vendite allo scoperto. Peraltro un tema interessante, il tema dello short, perché forse lo potremmo richiamare anche nella seconda parte della trasmissione con Guido Brera, perché anche queste operazioni di mercato, considerato un po' ardite se associate al piccolo risparmiatore, chiaramente sono al centro poi di diavoli. Chiusa parentesi, Piersimoni, comincio con lei. Da dove deriva l'ottimismo della borsa europea di stamattina? Ci sono, io direi, 3 motivi di ottimismo della borsa europea di questa mattina. Il primo è il rimbalzo notevole del prezzo del petrolio. Il prezzo del petrolio si è fatto soffrire mica poco nelle settimane precedenti, perché ci ha spaventato, e in un'economia chiusa, con i consumatori chiusi in casa, avere la benzina che costa poco serviva davvero a niente, mentre prevalevano gli effetti finanziari negativi. Per cui, con il rimbalzo del prezzo del petrolio, gli effetti finanziari positivi in questo caso prevalgono. Il secondo è che c'è stato qualche notizia incoraggiante dal punto di vista medico, in particolare una società biotecnologica americana sembra aver scoperto degli anticorpi interessanti per il trattamento di Covid-19, ed infine un tema che sta sul fondo, che è l'inizio del congresso del Partito Comunista Cinese, che inizierà il 22 maggio, che può essere un importante protagonista nei mercati finanziari. Per cui questi sono i 3 spunti di ottimismo della giornata odierna. E per quanto riguarda però lo sviluppo, per dir così, proprio interno ai mercati finanziari, questa cosa delle vendite allo scoperto, diceva Debora, sono dei meccanismi più speculativi di solito, quindi dobbiamo pensare che questo sarà foriero di un ulteriore così buon andamento dei mercati, oppure potrebbe mettere in difficoltà i mercati che adesso hanno trovato un po' una struttura di equilibrio? Oramai penso siano 2 mesi che c'è questa sospensione di vendite particolarmente, come dire, aggressive, ecco, per usare un termine senza stare a spiegare la tecnicalità. No, non spieghiamo la tecnicalità, diciamo, mettiamola in questi termini, ma facciamo un paragone, diciamo, facciamo un paragone calcistico. Diciamo che invece, che ne so, che togliere il fuorigioco, che renderebbe forse il gioco del calcio più divertente con più gol, mettiamo una regola sul fuorigioco ancora più stringente e mettiamo ancora ulteriori regole, per cui probabilmente invece che avere più spettatori si avranno meno spettatori con regole più stringenti. Per cui di fatto avere messo questo divieto di vendita allo scoperto, che cosa ha creato? Ha creato una minore liquidità dei mercati che hanno messo queste vendite allo scoperto, minore liquidità per cui performance paradossalmente peggiori. Per cui togliere queste regole rende il mercato più praticabile da una platea di attori più ampia. Per cui tendenzialmente togliere queste regole non è una cattiva notizia. Allora, Milano in tutto questo stamattina sta guadagnando l'1,29%, dicevamo lo stacco dei dividendi pesa per lo 0,86%, al netto di questo appunto Milano sarebbe in positivo esattamente con la stessa prestazione che stanno registrando gli altri indici europei, come dicevo intorno ai 2 punti percentuali. Le società che staccano sono A2A, Buzzi Unicem, Azimut, Eni, Generali, Italgas, Prismian, Recordati e Saipem. Peraltro, Pier Simone, anche questo è un tema interessante. Questo è un anno in cui molte società sperimentano la cancellazione della distribuzione delle dividende e questo è generalmente un tema molto gettonato sia dai piccoli investitori che dagli investitori professionali quando si cercano delle opportunità di investimento sul mercato. È un problema per voi il fatto che quest'anno molte aziende dovranno rinunciare a riconoscere ai propri azionisti l'adeguata remunerazione per essere degli investitori? Allora, avere delle società a cui è impedito di distribuire dividendi ovviamente non è una buona notizia. Noi nell'attività di gestori abbiamo però la possibilità di scegliere, nel senso che è evidente che tra una società che è libera di sviluppare i propri piani di impresa e di distribuire i dividendi e tra una che invece questo non lo può fare, tendenzialmente ti direi, Deborah, preferisco la prima, ma tutto c'è un prezzo. Perché ovviamente il prezzo disposto a pagare per la società 1 che può distribuire dividendi e fare più o meno il piano di impresa che vuole, la 2 che invece ha dei vincoli molto più stringenti, quel prezzo se è riflesso pienamente nei prezzi di mercato si può dare anche delle occasioni. Mi viene in mente il settore auto dimenticato da tutti, guardato con quasi con disprezzo, in realtà è un settore che secondo me non è messo così male, anzi ci sono delle società interessanti nel settore auto. Questo sembra quasi in controtendenza, Pier Simone, nel senso che abbiamo avuto questo crollo delle immatricolazioni. Lei dice forse è il momento di guardarci proprio per questo motivo, perché non potremo fermarci né fermare l'evoluzione, che so, verso macchine, verso automobili elettriche o comunque a minore impatto ambientale. Assolutamente, ma poi consideriamo anche, questo è un tema di lungo termine che è validissimo e sul quale io penso che ci siano ottime opportunità di investimento, ma anche nell'immediato guardate i dati sui trasporti pubblici e riflettiamo su questo. Io immagino che di fronte a un mondo che si pseudo normalizza il trasporto privato sarà molto molto molto più popolato di quanto fossimo abituati solo pochi mesi fa, e questo vuol dire più auto, vuol dire più auto e più domanda per auto. Adesso è chiaro, è evidente che adesso siamo in un momento di crisi, serviranno le sovvenzioni e serviranno gli incentivi, probabilmente in Europa molti incentivi avranno giustamente un colore verde, per cui per veicoli elettrici, però io credo che il trasporto privato sarà un trasporto destinato a riprendersi. Secondo me c'è una bella differenza tra il mercato stia ha messo insieme le compagnie aeree e le automobili, ma se uno allunga l'orizzonte ai prossimi mesi non sono la stessa cosa, per niente. Certo. Pier Simone, un'ultima domanda. Vorrei fare un piccolo focus proprio sulla questione cinese, perché nel momento in cui con l'allentamento del lockdown che sarà ed è anzi in ordine sparso, è chiaro che la ripresa economica in Occidente avverrà con tappe diverse, con una forte gradualità e poi chiaramente il tutto scongiurando l'arrivo di una seconda ondata di contagi. Detto questo, ci sono molte aspettative rispetto ai target che fisserà il congresso del Partito Comunista Cinese, perché è abbastanza plausibile pensare che nei prossimi mesi saremo un po' tutti agganciati alle prospettive di ripresa economica di questa area, Trump permettendo. Cosa vi aspettate? Io penso che dal punto di vista dei mercati la Cina è proprio quella che è il che può sorprendere, ossia nel mondo sviluppato, in Europa, nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti, abbiamo già visto le politiche economiche a pieno regime e possiamo aspettarci solo magari qualche miliardo, qualche centinaio di miliardi in più di quantitative easing, ma niente di più. La Cina invece è stata abbastanza refrattaria dal punto di vista dello stimolo di politica economica, per cui c'è effettivamente la possibilità che un'iniziativa più convincente della Cina, sia di politica fiscale che di politica monetaria, possa sorprendere positivamente i mercati, per cui da qui alle prossime settimane guardare con attenzione che cosa faranno i cinesi e come prosegue la diatriba commerciale tra Trump e Cina, alla quale però siamo abbastanza abituati oramai, no? Questa è una storia già vista, per cui il mercato tende a non spaventarsi per qualcosa di cui si è già spaventato, per cui attenzione a quello che faranno i cinesi e attenzione ovviamente all'evolvere del lockdown. Qui il rischio è proprio quello della mancanza di coordinamento tra autorità centrali e autorità locali. Grazie, grazie a Marco Piersimoni, senior investment manager di Pictet Asset Management. E allora, cara Deborah, abbiamo alcune notizie in breve, cioè adatte al nostro giornale radio del risparmio. Sì, ma c'è prima una sigla, naturalmente. Certo. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Piano con le parole, liberi tutti, andate a verificare sui siti delle regioni e poi sempre mascherina, guanti, come potete vedere chi segue questa trasmissione da Facebook, insomma dagli altri social che consentono anche la visione oltre che l'ascolto, qui continuiamo ad andare in onda in guanti bianchi e di là dal vetro naturalmente colleghi con guanti e con mascherine, quindi tutto assolutamente sempre seguendo i dettami. Cara Deborah, hai visto il Sole 24 Ore di oggi, numero da collezione? Ma anche oggi, come spesso accade, infatti, il lunedì. Infatti ero proprio qua in attesa di capire quando lo avresti detto, il classico numero da collezione, soprattutto nelle prime pagine, perché c'è una carrellata molto dettagliata rispetto a tutti i bonus che ci sono in questo momento a disposizione delle famiglie che hanno bisogno, e si cerca anche di capire quando questi siano compatibili, per esempio, con i trattamenti di ammortizzatori sociali o quando siano incompatibili, per cui per chi ha delle incertezze rispetto a questo può già andarsi a fare una bella carrellata, a prendersi delle informazioni appunto sulla pagina 2 del Sole di questa mattina. Mi fai qualche esempio? Ma guarda, allora ad esempio troverai cosa si prevede per il reddito di emergenza, cosa si prevede per il congedo parentale alla scadere della cassa integrazione, cosa si prevede, ne abbiamo parlato a lungo, per colf e badanti. Io devo fare solo una precisazione, voi perdonerete, tu Deborah mi perdonerai la pedanteria, questo decreto legge ancora in gazzetta non è arrivato, quindi noi siamo in grado di dare tutta una serie di anticipazioni ovviamente straverificate, ma per l'efficacia, cioè perché queste cose siano poi prendibili, gli euro siano messi lì e assegnati a chi ne ha bisogno, alle categorie che ne hanno bisogno, bisogna proprio aspettare, non c'è niente da fare, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Speriamo che tutto questo avvenga molto molto rapidamente. Prego. Guarda Mauro, questa raccomandazione fa il paio con un'altra che vorrei dare, non l'avevamo scritta in scaletta ma mi è venuta in mente adesso di fornirla ugualmente ai nostri ascoltatori. Come tu ben sai, siamo stati letteralmente travolti nel weekend dalle domande da parte di ascoltatori che ci chiedono delucidazioni sui lavori da poter fare prossimamente in casa per poter usufruire del famoso generosissimo bonus dal 110% per ancora una volta ritornare a fare riqualificazione energetica dello stabile, dell'edificio, dell'appartamento in cui si abita. Anche lì aspettiamo a questo punto le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, per cui non possiamo darvi dettagli. Abbiate ancora un pochino di pazienza, nelle prossime settimane torneremo a darvi tutte le istruzioni per poter fare correttamente questo lavoro e per poter naturalmente fruire di questo vantaggio fiscale estremamente vantaggioso messo in pista con il decreto rilancio. Noi tra un po' direi di andare in pausa, Mauro, però ci sono altre due notizie che sarebbe carino dare. La prima te la assegno, l'amante in chat costa l'addebito, e poi io magari do quella sull'inflazione perché mi serve anche per lanciare la seconda parte del programma. Allora sì, perché quest'oggi Marisa Marraffino, che è peraltro un'amica di Radio 24 di Due di Denari, l'avvocato Marisa Marraffino, segnala attenzione alle chat, perché ci sono state le decisioni dei tribunali, più di una, viene riferito oggi a pagina 26 del Sole 24 Ore, che hanno utilizzato proprio i messaggi tra amanti, quindi tra fedifraghi, sulle chat, specialmente WhatsApp, come prova poi per ad esempio assegnare un addebito al fedifrago, e anche il fatto appunto di provare se la relazione esisteva da prima oppure no. Il caso da cui muove Marisa è molto divertente, perché riguarda, insomma divertente non per chi ci è rimasto coinvolto, riguarda una amante che, esasperata dal comportamento del fedifrago, ha mandato alla moglie un messaggio WhatsApp in cui gli ha detto: guarda che abbiamo una relazione da anni e adesso le borse. Ah no, devi parlarci dell'inflazione, giusto? Ma molto velocemente, perché è un assist perfetto per la seconda parte del programma. Venerdì l'Istat ha reso noto appunto il dato sull'indice dei prezzi al consumo nel nostro paese. Ad aprile il dato è fermo, ma in realtà per un effetto di compensazione. L'azzeramento dell'inflazione è imputabile ai prezzi dei beni energetici, che sappiamo sono letteralmente crollati. Ma per quello che riguarda il carrello della spesa abbiamo invece un'impennata, e sappiamo appunto che questo è anche un tema di grande preoccupazione in prospettiva per i nostri amici consumatori. Allora, come possiamo quantomeno proteggere i nostri risparmi dall'inflazione dovesse ricominciare a crescere? Cercheremo di capirlo nella seconda parte del programma. Le borse. Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltar. Ciao, sono Barbara da Nuoro. I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona. I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli. I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61%. Ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. Investire informati. BTP Italia, speciale Covid. Ebbene sì, come preannunciato, ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse, appunto anticipandovi che oggi, in vista di questa partenza di collocamento, saremo ritornati sull'argomento. Parte oggi, Mauro, la 16ª emissione del BTP Italia. Un'emissione speciale, no? Come largamente annunciato dal Tesoro da qualche settimana. Che cosa accompagna l'avvio di questa operazione? Guarda, questa operazione è fatta, come ci è stato spiegato, per la necessità di sostenere le spese straordinarie che abbiamo dovuto varare per appunto l'emergenza da coronavirus. Quindi è un'emissione che, diciamo, ricorda un po' la primissima emissione del BTP Italia, forse quando appunto anno 2012, ricorderai, crisi dei debiti sovrani, insomma difficoltà per il nostro paese, per colpito dalla crisi prima finanziaria poi economica, e in quella fase appunto ci fu questa sorta di chiamata ai mercati, non necessariamente solo ai risparmiatori italiani, ma ai mercati, perché dessero fiducia al nostro paese. E così appunto si vuole fare anche questa volta, per un sostegno indirizzato proprio all'emergenza coronavirus. Sai che abbiamo ospiti di valore planetario quest'oggi proprio sulla materia. Noi di sotto ormai non possiamo più andare. Ringrazio di essere ritornato con noi, per essere tornato con noi, dottor Davide Iacovoni, capo della direzione del debito pubblico al Ministero dell'Economia. Buongiorno. Peraltro so già che ha dei dati freschissimi rispetto alle prime operazioni, alle prime ore di collocamento. Dottor Iacovoni, buongiorno, le lascio subito il microfono per potercele preannunciare, per potercele annunciare. Sì, buongiorno, grazie a entrambi. Diciamo, il mercato oggi ha aperto bene, e lo si vede anche dalle dalle contrattazioni che stanno interessando la nuova emissione del BTP Italia. Il dato delle 11 ci dice che erano stati raccolti già circa 1,2 miliardi di euro, però già guardando gli schermi adesso abbiamo già superato 1,5 miliardi, quindi 1,5 miliardi. Devo dire il dato importante è anche la granularità del numero dei contratti, cioè stiamo vedendo un numero molto elevato in confronto per esempio già alla precedente emissione, che magari potrebbe essere considerata come un primo termine di riferimento, perché sempre alle 11 avevamo raggiunto quasi 33.000 contratti, che sono oltre quasi 4 volte i contratti sempre nelle prime due ore dalle 9 alle 11 della precedente emissione. Quindi è partito in modo piuttosto soddisfacente. Adesso naturalmente dovremo vedere poi l'evoluzione nelle prossime ore, è vero anche che chiaramente molte persone si erano già prestate inviando gli ordini già in primissima mattinata, questo è abbastanza fisiologico, quindi è chiaro che normalmente la partenza è forte, però ripeto, in comparazione con le precedenti emissioni, con l'ultima in particolare, mi pare che sia decisamente più forte. Tra l'altro, Mauro, stavo pensando che gli italiani hanno sempre paura che tutto funzioni come un click day, chi tardi arriva male alloggia, e quindi si mettono sempre lì un po' in fila per fare prenotazioni di qualunque cosa nelle prime ore della mattina, della prima giornata di qualunque circostanza. Adesso, mentre tanto c'è per tempo, fare... giusto, quanti giorni ci esatto. sono, per quanti giorni c'è questa emissione come proprio emissione in asta, non al secondario, Deborah? Sono fino sì, a mercoledì, allora, mi pare. Le istruzioni sì, ce le possiamo sicuramente far ridare dal dottor Iacovori, ma per il pubblico indistinto c'è tempo fino a mercoledì per tutta la giornata, perché tra l'altro, esatto. dottor Iacovoni, ricordiamolo, verranno accontentati tutti i potenziali sottoscrittori dal punto di vista del pubblico retail, per l'appunto. Esattamente, non c'è nessun tipo di razionamento, quindi tutto quello che viene richiesto viene assolutamente assecondato. La terminologia tecnica inglese è il cosiddetto full allotment, quindi viene garantita tutta la domanda, viene l'offerta si adegua pienamente alla domanda. Così in realtà non è, però poi nel giorno successivo, ma questo riguarda soltanto gli investitori istituzionali, dove da diversi anni ci riserviamo la possibilità di poter razionare ove l'emissione vada oltre degli ammontari che ci siamo prefissati. Però diciamo, per quanto riguarda gli investitori retail non c'è nessun limite. E questo lo vedremo appunto giovedì mattina. Adesso il punto importante, Mauro, da raccontare è la spiegazione del tasso minimo garantito, che è stato fissato venerdì scorso e che potrebbe avere una variazione appunto nella ultima giornata di possibilità di sottoscrizioni, ma diciamo, per essere anche dei bravi padroni di casa, dovremo anche presentare il nostro secondo ospite di questa mattina. Ma lo facciamo con piacere. Allora, Guido Brera, socio fondatore CEO del gruppo Kairos e autore de I Diavoli e anche della Fine del Tempo, peraltro, che è la sua ultima fatica letteraria. Dico bene, dottor Brera? Buongiorno a tutti, sì, esatto. Allora, come vede questo debito pubblico che così si cerca di far ritornare a essere più nazionale? Perché attualmente appunto molto del nostro debito pubblico è gradito all'estero, magari meno considerato, siamo meno attenti noi italiani al nostro debito pubblico. Vede questa operazione, come vedrei questa operazione, dottor Brera? Intanto direi che questa operazione aiuta molto sia il paese sia i risparmiatori. Aiutare il paese, perché ovviamente abbiamo degli esempi virtuosi tipo il Giappone, dove un popolo di grandi risparmiatori simile a quello italiano si è praticamente insieme alla banca centrale giapponese ricomprato la gran parte del debito pubblico, cosa che tutto sommato potremmo fare anche noi perché abbiamo un risparmio che forse è l'asse strategico più importante del nostro paese, che molti, anzi troppi, che lo continuano ad invidiare ed ad invidiare. L'operazione in particolare è un'operazione virtuosa anche per chi la sottoscrive. Primis, perché io sono sempre stato abbastanza scettico sul pick up, cioè sul rialzo dell'inflazione, però devo dire che se c'è una volta che veramente l'inflazione potrebbe salire è questa, nel senso che noi abbiamo dei movimenti talmente tanto forti, deflattivi, l'immigrazione, la tecnologia, il prezzo dell'energia, venga spinta a ribasso. Dall'altro lato, però, in questo caso abbiamo intanto il Covid, che secondo me è da un lato può essere, una volta usciti dall'emergenza, inflattivo, perché ovviamente costi di gestione di una sorta di catena montaggio, ecco, aumentano. E in secondo luogo, comunque non dobbiamo dimenticarci che sono stati stampati purtroppo, dico però giustamente, trilioni e trilioni, e quindi io credo che l'inflazione, io dico, è sempre un po' come il ketchup nelle patatine, no? Non so se vi capita mai di mettere il ketchup nelle patatine, a me capita spesso che non esce mai, poi quando esce, ne esce troppo. Allora, questo è un prodotto virtuosissimo in questo senso. In primis abbiamo finalmente chi tiene i soldi sul conto corrente e non prende interessi, anzi a volte paga. In questo caso qua è un'ottima alternativa, primo perché ti protegge dall'inflazione, secondo perché ti dà un rendimento positivo, terzo perché libera anche domanda interna, perché poi con questo piccolo, anche questi bonus, questi incentivi che vengono dati a chi li sottoscrive, insomma, comunque sia, io dico liberi domanda interna perché comunque hai un rendimento positivo abbastanza importante che poi puoi spenderti anche all'interno dell'economia italiana. Quindi è un doppio virtuosismo, trovo che sia, uno direbbe in inglese, diciamo, no brain, cioè non devi mettere troppo cervello per capire che è una cosa abbastanza interessante. Hai anche una banca centrale che continua a comprare ora più di prima il nostro debito pubblico, come quello di tanti altri paesi, e in ultimo, e questo è importante, lei ha citato i diavoli, sì, lato diavoli, se io dovessi essere il protagonista del mio libro direi, beh, quindi lo compro, perché in realtà oggi siamo in compagnia di altri paesi che comunque hanno una traiettoria di debito pubblico molto simile alla nostra, che tra due anni, se noi espanderemo, ahimè, il debito pubblico causa Covid, anche Francia, soprattutto Spagna, avranno delle traiettorie molto molto simili alla nostra, e quindi comunque sia non saremo più i soli e non avremo nessun stigma di avere un alto debito pubblico. In ultimo, io sono sempre dell'idea che un alto debito pubblico deve essere anche confrontato con risparmio interno. Noi abbiamo un altissimo risparmio interno che secondo me offsetta ampiamente questo debito pubblico molto alto. Ecco, tra l'altro questo risparmio interno, sì, ne abbiamo parlato anche con il dottor Iacovoni proprio nelle settimane passate. In questo momento molte famiglie devono utilizzarlo per fronteggiare questa, speriamo momentanea per molti, crisi di liquidità che è determinata dalla mancanza di lavoro, dall'interruzione appunto di lavoro, e quindi è chiaro che si fanno molti ragionamenti all'interno del nucleo familiare per capire se è il caso o meno di sottoscrivere questo investimento. Dottor Iacovoni, allora l'1,4% rendimento minimo garantito che è stato definito venerdì scorso dal Tesoro italiano e che poi quello definitivo appunto come sempre sarà dato nell'ultima giornata di collocamento. Ci spiega un po' la motivazione, la ragione della scelta di questa soglia percentuale, come la possiamo appunto spiegare ai nostri ascoltatori? Dottor Iacovoni? Sì, mi sente? Sì, questi livelli li valutiamo sulla base del fatto che abbiamo già un mercato molto ampio e diffuso di BTP Italia, abbiamo una cosiddetta curva dei rendimenti del BTP Italia, abbiamo scadenze di BTP Italia anche più lunghe di questa che stiamo portando sul mercato adesso, e quindi sulla base di questi tassi presenti sul mercato secondario andiamo a fissare, diciamo, la cedola per la nuova emissione. Si parte con questa, poi come diceva lei giustamente, giovedì dovremo vedere il mercato come si è mosso durante questi giorni, quindi ove sia necessario questa cedola potrebbe essere ritoccata, ma solo esclusivamente a rialzo, perché quella che abbiamo comunicato venerdì appunto è una cedola minima. Questo è un tasso reale, sempre meglio ricordarlo questo, quindi prima ancora che si abbia poi la rivalutazione per effetto dell'inflazione, questo è il tasso che viene comunque garantito. Dopodiché ove ci sarà inflazione, come diceva prima giustamente il dottor Brera, non è magari un tema di oggi ma potrebbe essere importante un tema di domani, l'inflazione verrà recuperata sia a protezione del capitale e sia a protezione delle cedole, quindi si potrà avere in termini nominali lordi qualcosa in più di questo 1,4%. E poi ricordiamolo sempre che alla scadenza, maggio 2025, si avrà questo una tantum di 8 euro per mille, che viene garantito però soltanto chiaramente a coloro che hanno detenuto il titolo fino alla scadenza. E questo risponde già bene, Deborah, esatto, a diversi ascoltatori che ci chiedevano: ma se lo rivendo prima? No, se uno rivende prima ha il rendimento che è stato annunciato, ma non c'è ovviamente il premio fedeltà. Invece adesso, sai, cara Deborah, c'è il traffico. C'è? Il traffico, traffico. Di denari. Investire informati. BTP Italia, speciale Covid. Ci sono voci di bancari che dicono che prima o poi questa ritenuta da conto sui BTP Italia del 12,50 sarà equiparata alle altre, cioè del 26%. Vero o falso? Allora, il fisco è sempre, Deborah, lo sai, nelle così. Un diavoletto, sì, per dirla alla Guido Brera. È sempre nelle preoccupazioni di noi italiani, non c'è niente da fare, siamo tutti sempre sensibili alle questioni fiscali. Allora, non so, chiediamo direttamente, visto che abbiamo l'opportunità di parlare con Davide Iacovoni, che è il capo della direzione del debito pubblico al Ministero dell'Economia. La tassazione è quella agevolata dei titoli di Stato, quindi 12,5% in luogo del 26% applicato sugli altri strumenti finanziari. Ce lo conferma dottor Iacovoni? Sì, sì, lo confermo pienamente, questo è correttissimo, quindi questo titolo, essendo un titolo di Stato, va sotto questo regime agevolato particolare, appunto, che è quello del 12,5% su tutte le forme di redditività, che siano essi appunto le cedole, o guadagni in conto capitale o quant'altro, quindi diciamo tutto questo è sicuramente sotto questo regime agevolato. Tra l'altro ricordo, perché spesso nelle conversazioni questa cosa viene un po' dimenticata, che diciamo questo ha anche un regime agevolato dal punto di vista dell'imposta di successione, perché i titoli di Stato non sono intaccati dall'imposta di successione, questo forse è sempre meglio ricordato. Ecco, poi fa diversi. Impressione questo terrorismo che viene fatto allo sportello bancario, magari sarà stato solamente un'eccezione di un funzionario, appunto, che forse voleva spingere verso, non lo so, un'indicazione di un altro prodotto di investimento, però insomma si evoca nella testa delle persone anche la possibilità che arrivi una patrimoniale, perché secondo me un po' questo era l'intendimento del consulente sentito dalla nostra ascoltatrice. Se ne parla spesso ovviamente sui giornali, ma al momento ovviamente tranquillizziamo tutti che non c'è nulla in vista, speriamo almeno. Mauro, scusa. E neppure se ne parla. No, volevo chiedere conferma di una cosa che ci viene sollecitata: l'acquisto online direttamente da parte del risparmiatore, perché è una particolarità di queste emissioni di BTP Italia, in generale di tutte le emissioni e anche di questa, quindi. Sì, questo lo confermo pienamente. Chiunque ha il proprio home banking può effettuare direttamente l'acquisto online. Tra l'altro l'acquisto è molto semplice, perché il prezzo di emissione è alla pari e a 100, non c'è nessuna commissione all'acquisto, quindi c'è una trasparenza massima sull'importo che viene acquistato e quindi il quantitativo nominale che poi ci si ritroverà sul proprio conto deposito titoli. Però ricordo anche che in questo particolare periodo stiamo appena uscendo, no, molto gradualmente dal periodo di contenimento, di lockdown, chiaramente diciamo tutte le banche, sia le banche che sono coinvolte in questo collocamento, ma abbiamo degli riscontri importanti anche delle altre banche, si stanno comunque organizzando per consentire alla propria clientela di poter prenotare il titolo anche con modalità diciamo innovative, via telefono, via mail o via altri canali. Quindi il consiglio caldo che sempre diamo è di telefonare al proprio referente bancario o anche in ufficio postale, perché ricordiamo sempre che questi titoli sono acquistabili anche in ufficio postale, e farsi dare tutte le informazioni circa le modalità di prenotazione. Sappiamo anche addirittura che alcune banche hanno allargato gli orari di apertura delle filiali proprio per agevolare al massimo l'accesso, quindi diciamo basta raccogliere un po' di informazioni sui propri canali e si vedrà che insomma l'acquisto dovrebbe essere piuttosto agevolato. Allora, volevo tornare un attimo a Guido Brera e gli faccio fare in questo momento un po' il suo lavoro. Kairos è un investitore qualificato e io le chiedo, Brera, girandole per la verità, una domanda che ci hanno fatto tantissimi ascoltatori e sulla quale ci stanno sollecitando da un bel po' di tempo, da quando abbiamo iniziato a spiegare appunto intanto tutte le premesse che sono dietro a questa emissione speciale di questo BTP Italia, e questo appunto è stato uno dei temi più gettonati fra gli ascoltatori, che hanno seguito evidentemente con grande interesse tutto il dibattito che si è sviluppato a livello europeo circa la possibilità per gli stati in difficoltà di fare ricorso a queste linee di credito preferenziali erogate dal meccanismo di stabilità, dal MES. E allora le persone chiedono, ma se lo Stato può chiedere la linea di credito al MES ed indebitarsi per un tot di anni ad un tasso molto vantaggioso, l'Italia nella fattispecie può chiedere questi famosi 35-36 miliardi di euro, perché contestualmente lo Stato chiede denaro, dà la possibilità agli italiani appunto di sottoscrivere un titolo di Stato che ha una durata di 5 anni ad una remunerazione più alta? Ecco, se glielo chiedesse Brera un vostro cliente, un cliente di Kairos, come spiegherebbe questa dinamica, questa circostanza, questo argomento? Ah, io direi che è una dinamica piuttosto normale, anzi è virtuosa, cioè non solo non esclude l'altra, ma sono complementari, perché probabilmente al di là del MES ma se non avessimo avuto queste condizioni di accesso proprio al risparmio privato così buone, con un risparmio privato così importante, anche il MES stesso ci avrebbe probabilmente offerto delle condizioni diverse. E quindi il tema è che è normale che ogni paese si debba, voglio dire, debba fare riferimento in primis al risparmio degli italiani e sottoscrivere delle aste del BTP, che peraltro sono non vengono rinnovate, mentre il MES è un approvvigionamento completamente diverso, in quanto è di carattere totalmente straordinario, che tassi abbastanza bassi. Io non voglio entrare nella polemica MES sì, MES no, però a questo punto penso che quando uno ti offre soldi così bassi alla fine te li devi prendere, sarebbe stato meglio che fosse stato non solo l'Italia ad aderirvi, ma magari, ecco, io chiederei che anche molti altri paesi lo facciano. Detto ciò, il fatto che poi assieme al MES chiedano soldi agli italiani è una cosa proprio normale, cioè lo Stato è un organismo vivente che respira, no? Il respiro è fatto da appunto emissioni di titoli di Stato che vanno a volte addirittura a sostituire quelle precedenti, altre volte in momenti particolari come questo espandono il debito pubblico, perché il debito pubblico dobbiamo ricordare che non è tutto negativo, il debito pubblico ha permesso a quelli di studiare, io non ho pagato mai una lira ai tempi per lo studio, permette di curarsi, permette, diciamo, è ovviamente uno di quelli che combatte la disuguaglianza, e questo viene fatto soprattutto in un momento come questo. È normale che il debito pubblico debba espandersi, perché è un momento, il problema è quando le cose vanno molto bene che il debito pubblico non deve espandersi, quello è stato comunque il problema degli ultimi 30 anni dell'Italia. In questo momento qui è sacrosanto sottoscriverlo. E soprattutto non è che è giusto, ma è conveniente, qui noi stiamo parlando di giusto o meno, ci sta, è una cosa giusta, ma è una cosa anche che conviene, perché obiettivamente si che avere i soldi in conto corrente, addirittura magari investiti in titoli di Stato di altri paesi che rendono tassi negativi, tanto vale averlo sull'Italia, soprattutto. Sai Deborah, ci sono anche degli ascoltatori, penso che farà piacere al dottor Iacovoni, ci chiedono il codice ISIN o ISIN, non so come preferisci dirlo, ma se vuoi io è sul sito, sì, ma se vuoi dirlo noi l'abbiamo anche indicato nella nostra scaletta, esatto. Sì, sì, e IT poi comunque come si Italia. Trova facilmente, sì, sì. Sì, è IT come Italia, poi 3 volte 0 541 0904, quindi IT. E non è il numero di telefono di Mauro Meazza, mi raccomando. No, neanche di Deborah, devo dare una delusione agli ascoltatori. Lo ripeto, se non avevate pronta carta e penna, IT 3 volte 0 541 0904. Visto che ce lo chiedete, noi siamo qui appunto per cercare di dare più informazioni possibili su questo strumento che appunto cade in una condizione un po' particolare, lo dicevamo all'inizio, no Deborah? È uno strumento che ha avuto un debutto già in condizioni particolari, via via ha avuto varie emissioni. Come sta andando in questo momento? Abbiamo delle variazioni ulteriori, dottor Iacovoni? Siamo quasi in chiusura, abbiamo 2 minuti ancora. Sì, sì, beh, diciamo la tendenza è sempre la stessa, cioè sta andando piuttosto spedito, diciamo così, e sì. In questo momento lo vediamo intorno a 1,8 miliardi circa, già raggiunti quindi in quasi 3 ore di contrattazione, quindi tutto sommato 5 secondi, sì. Dottor Iacovoni, il tema della deflazione in realtà ci sembra abbastanza improbabile che possa verificarsi, ci sembra più possibile insomma che possa verificarsi la circostanza contraria, ma mi ricordiamo che questo strumento teoricamente protegge anche da un'inflazione che si fa negativa, che si potrebbe fare negativa. Sì, questo perché è correttissimo. C'è il floor, no? Il cosiddetto pavimento, sì. Esatto, io sottolineerei il termine di garantito quando parliamo di questo tasso minimo, perché garantito appunto vuol dire che in ogni caso, anche ci fosse inflazione negativa, quindi appunto deflazione, il coefficiente a cui viene moltiplicato il capitale a questo floor appunto all'unità, e quindi vuol dire che non possiamo mai avere una decurtazione del valore del capitale e quindi anche un impatto sulle cedole, quindi questo viene totalmente escluso da questo meccanismo di blocco, diciamo appunto di floor a ribasso. Questa era una domanda che ci facevano in molti, Deborah, cioè sì, se per caso l'inflazione andasse in negativo, ma che mi succede, perdo il capitale, eccetera. Mi sembra che il dottor Iacovoni abbia risposto molto chiaramente. Prego. Certo, l'ultima domanda volevo farla a Guido Brera, ricordando che venerdì si è chiusa su Sky la fortunata serie Diavoli, appunto tratta proprio dal suo fortunato romanzo. Mi stavo chiedendo, dottor Brera, se questa finanza ai tempi del Covid potrà generare un altro soggetto interessante per un altro romanzo, perché credo che anche per voi sia un momento particolare in questo da osservare dal punto di vista proprio di chi gestisce patrimoni per conto di altri e per chi fa appunto proprio l'investitore professionale. Ma sì, è un momento di grandi esperienze, quindi c'è delle visioni. Noi in realtà stiamo scrivendo Diavoli 2. Io sono contento, sono molto felice come è andata Diavoli, perché ricordo una produzione italiana, la Lux, Sky Italia, da me e da altri sceneggiatori italiani, e abbiamo fatto, diciamo, al di là. Poi voglio dire, può essere piaciuto o meno, il pubblico ci ha premiato moltissimo. È bello poter, diciamo, vedere l'Italia e uscita in America, che può competere con produzioni internazionali di livello anche su temi non prettamente italiani, no? Perché poi un po' più, certo. La fermo perché siamo arrivati in chiusura. Allora, grazie a Guido Brera, socio fondatore e CEO del gruppo Kairos, grazie a Davide Iacovoni, capo della direzione del debito pubblico al Ministero dell'Economia. Deborah, noi torniamo domani. Buona giornata a tutti.